cos'è sto fischio? Drago, ma hai il nuovo apparecchio acustico? Ma funziona? Le 5 meno un quarto. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Alessandro Longoni. Ma chi è? Ma un saluto da Drago, ecco infatti Tito, ma Alessandro Longoni. Tito è questo tutor. Qui che c'è dietro il vetro, sì, questo, questo nuovo. Sostituisce Laura Faggin. Vabbè, ma per una così, una tantum, Laura non, Faggin non è, non è, non è una lei, Robin Tax. No, ma dico, non è che anche lei come tanti. Robin Tax. Ma dopo una carriera, sì, insomma. Laura Faggin. Magari anche lei, no, voglio dire, non è che è. No, va bene, ok, va bene. Allora, negli Stati Uniti, parliamo invece che di morti, di funerali, parliamo di matrimoni. Allora, negli Stati Uniti il 2011 passerà alla storia come l'anno in cui gli sposati, per la prima volta in tutta la storia, l'ho detto mille volte. E allora? Vabbè, ma la storia è importante. Il 2011 passerà alla storia come l'anno in cui negli Stati Uniti gli sposati sono meno dei non sposati, hai capito? Dati alla mano. Sono 45,6% i non sposati e 44,9% gli sposati. Sì, però scusa, 45,6 più 44,9 fa 90,5, non fa 100. Vabbè. No, cosa va bene? Rimanente 9,5 cosa fa? Non lo so, prova a chiederlo al Pew Research Center. Ma cos'è? Il Pew Research Center, PEV. Sono quelli che hanno condotto questa indagine. Quindi, non so, questo 9,5%, che ne so, saranno i vedovi. No, i vedovi tecnicamente sono non sposati, scusa. Come separati, insomma. Anche le vedove. Le vedove. Che sono sempre più numerose dei vedovi. Ma si sa. Perché lo sappiamo che... succede solo no solo spesso. Succede più spesso gli uomini, insomma, vabbè, gli uomini vabbè. Cosa ti tocchi lì, Drago? No. Comunque sbagli di calcolo a parte, che novità è questa, scusa Drago, ci si sposa sempre meno, ma è così da chissà quanto tempo. Ma ho capito, cioè sembra a noi discendente, no, a noi sempre. Sembra così perché siamo due immaturi ultra quarantenni che ancora non ci siamo sposati e magari non ci sposeremo mai, però nella società vera il matrimonio va ancora fortissimo, o almeno andava. Adesso che si spargerà la voce su questa ricerca, vedrai che anche qui da noi seguiremo le orme degli americani come al solito. Anche il fatto che non ci si sposa, secondo te, è parte del grande movimento verso l'infantilizzazione del mondo? È ovvio, il matrimonio implica delle responsabilità civili, oltre che morali, lasciamo perdere. E questo spaventa i bambinoni di oggi, no? I bambinoni e le bambinone. Perché proprio la novità è che adesso anche le donne non si sposano così volentieri come una volta. Una volta si sposavano, hai capito, le donne erano... Ma non possono più fare le barzellette con lei che si vuole sposare e lui che non si vuole sposare. Esatto. Non funziona più adesso. Adesso sarà il contrario. Ma poi tra le cause del crollo dei matrimoni c'è anche l'aumento dei bamboccioni americani, cioè prima il bamboccionismo era un problema quasi solo italiano, adesso con la grande crisi quasi il 20% dei maschi americani tra 25 e 34 anni, che sono poi gli anni buoni per sposarsi, vive coi genitori. Ma 25 e 34 ma non c'è lavoro, Drago, cosa dici? Dici delle ovvietà. Ma anche quelli che si sposano prima o poi divorziano, cioè due matrimoni su tre durano meno di 10 anni, quindi da oggi decretiamo ufficialmente lo stato di crisi del matrimonio. Anzi, lo stato di crisi del matrimonio. In effetti, se ci pensi, cos'è tutta questa enfasi per il matrimonio? C'è tanta enfasi nel matrimonio quanto riservatezza nel divorzio. Sono due facce della stessa medaglia. Cioè, tu dici che così come si festeggiano le nozze, si dovrebbero festeggiare i divorzi. Anche il divorzio è l'inizio di una nuova vita, avventura. Ma per qualcuno non è una tragedia. Altri è una festa. Spesso c'è uno dei due. Però nell'immaginario collettivo il matrimonio è il momento più felice della vita di un uomo, di una donna. Cioè, pensa a tutte le canzoni in cui c'è un lui che invoca una lei, marry me. Ma quale canzone? Non lo so. Beh, in Italia c'era Marina, ti voglio al più presto sposare. Ma in quegli anni, in particolare in quella canzone, sposar voleva dire un'altra cosa. E cosa? È un senso episcopale, capito? Episcopali. E ora, bambini, ricreazione. Oh, la recita di Natale, Drago. Allora, i campanelli, a tempo. A tempo? Vabbè, ci provo. Ma no, basta! cosa? Braccio di ferro? No, braccio di ferro è diverso. Vabbè, basta con questa cornamusa a tastiera che sta usando K. Allora, silenzio. Oh, allora, vabbè, devo farmi una domanda importante. Sta recita di Natale. Non vedi che stiamo provando apposta. Siamo qui. Se tu non disturbassi. Allora, potrei sapere, voi magari sapete quale ruolo mi daranno. Ma non si sa ancora, dai. Non sa neanche se la fa. Sicuramente dovrò fare Gesù Bambino, questo l'ho immaginato anch'io. Senti, non sappiamo neanche se facciamo la Natività. Infatti. O Dickens o qualcosa. Quindi... O magari facciamo una cosa un po' più pagana, tipo Babbo Natale, oppure la renna dal naso rosso, quelle cose lì. Rudolf. Rudolf, l'albero di Natale. Oh, Tannenbaum. Tannenbaum. Allora, Blättern. Ecco, Blättern. Quindi cosa? Tutta sta roba cosa vuole dire? Non lo so. Che non sappiamo... io te la faccio alla fine. Non si sa neanche se la fai. Io ho una voce l'ho già sentita in giro, non so se sia vera. Vabbè, cioè, qual è quella che tu farai la stella del grande albero di Natale che ci sarà sul palco. Dove? La stella dell'albero di Natale? Non mica male, no? È un ruolo di altissimo livello. Altissimo. Ma appunto, anche troppo. È sulla cima dell'albero. La volta scorsa ero stato su un albero perché facevo la piccola vedetta lombarda. È ben te ne adesso posso. Ancora su un albero. Vabbè, almeno ti vedono, no? Perché se venissi sul palco con noi. Noi sei così piccolo che nessuno ti vede, quindi è meno lì. Non mi sembra un buon motivo quello per stare lì in cima all'albero a fare la stella. Perché? Cioè, perché non è un buon motivo? Beh, non mi sembra il ruolo consono alla mia notorietà. Mamma mia. Allora, domanda retorica. Sono o non sono la star dell'asilo? Ma cos'è? Sono, sono capitano uncino. Quella è bella. È bella quella. È ben nato, come no? Facciamolo? La facciamo? Dai. Vai. Cuculele. Io ho la tua voce, fallo, no? Fallo con la tastiera. Con la tastiera. È lì, l'ukulele, davanti a te, bambino Alberto. Se non me lo passi. Dai, sbrigati. Dai, passamelo, portamelo qua. Avvicinalo un attimo. Tutto, ma bambino Alberto. Prima che ha pestato una roba che pensavo fosse un cartone di. Ah no, era l'ukulele invece. Dai. Come? Ha pestato una cosa che sembrava un cartone. Ma meno male che sembrava un cartone. Allora me lo dai, l'ukulele, lì. Come quale? È lì, appoggiato lì. Quello... Ah, questo. Stacca il cavo. Cum, adesso c'è il rientro. Ma tanto siamo in cortile, non ci può essere un dentro. Rientro fuori, niente, fuori, poi non c'è nemmeno il rientro. Perché è la finzione, perché questa è la magia della radio. Sono, non sono il bambino Alberto. E per stavolta ti avverto. O faccio Gesù bambino, oppure faccio un casino. Io sono il solito bambino che vuole fare sempre e allora il gioco è mio. Allora devo tirare i danni per primo. Allora vai, un po' di metrica, il blues. E per stavolta vi avverto. Vai. Io che la faccio all'aperto. O faccio Gesù bambino, oppure faccio un bambino Alberto. Cosa fai? Ma cos'è? Faccio un bambino. Ma come ti fai un bambino? Cosa stai dicendo? Comunque non è detto che la voce di questa qui della stella sia una voce vera. Me l'ha detto un uccellino. Vabbè, e quindi un uccellino. Sì, me l'ha detto un uccellino e ma chi, Pio? Pio, ma no, ma Pio. Vabbè, no, lasciamo perdere. Ma Pio, sai che Pio? Forse sai. Sai che Pio mi sa che è un po' come mio padre. Ma Pio? No, ma non è Pio, è un uccellino, si dice così, bambino Alberto. Pio, quando non Pio si vuol dire. È un piccione, piccione malato, quello della pestera. Esatto. Ma che lui che lui in terapia intensiva. Sì. Ah, è lui che quindi sono sbattimenti. Ah, quindi non è morto. Perché io ho sentito dire invece da un altro uccellino che in realtà la recita durerà 4 giorni consecutivi, e che prevederà per intero l'esecuzione per ukulele e kazoo aiuto della tetralogia dei Nibelunghe di Wagner. Sì. Ma cos'è questi? La storia è questa. Sigfrido, il figlio del re Sigismondo, sovrano dei Nibelunghe, si innamora perdutamente di Cremilde, la bellissima figlia di Gunther, re dei Burgundi. Durante il viaggio Sigfrido dovrà affrontare molte prove prima di arrivare da lei. Ucciderà il nano Alberico, guardiano del grande tesoro del popolo dei Nibelunghi, e anche un feroce drago. Quindi vedete, c'è sia il bambino di Alberto che farà il nano Alberico, e sia il drago che farà è il drago. Vabbè, il bambino Alberico, quindi sei contento? Sigfrido, Alberico. Sigfrido chi lo fa? Chieditelo. Chi lo fa? Farai tu. Certo. E Crimilde? Crimilde manca. Manca, quindi lo farà Calabro. Cosa dici? No, spero di no. Calabro mi sa che fa la renna dal naso rosso. Ubriaco, sì, va bene, ok. Ma allora io com'è che mi preparo? Ma continua così, non preoccuparti, no? Ma così come? Ma così, no? Ma... Così va benissimo. Vabbè, ma cappa qui, allora, Enel... disastro, poi cosa? Anel Energia automatica, ma guarda che ero meno 10,13, non dico qual è l'azienda che ha meno 10, ecco adesso è meno 9,96, ma proprio cambia di secondo. Di quell'azienda lì hanno arrestato 4 per cocaina. Lo so, sono quelle cose che fanno male. Va bene, allora, un saluto a tutti, ci risentiamo domani, chiedo asilo, è radio24.it. E adesso con questo bollettino qua seguirà la trasmissione più famosa di Radio 24, ossia... Borse in disfatta.